prossimo tuo, rubrica in collaborazione con la Caritas. Nuovo appuntamento con le Caritas per la nostra rubrica Prossimo Tuo e ritroviamo la Diocesi di Padova con il direttore Don Luca Facco. Bentornato Don Luca. Grazie, buongiorno a tutti. Dunque, un appuntamento che ormai sta arrivando perché il calendario corre e bisogna a volte rincorrerlo, è l'assemblea diocesana delle Caritas di questo sabato 27. Sì, abbiamo rivolto l'invito a tutte le Caritas parrocchiali di ritrovarci insieme per vivere un momento di confronto e di condivisione all'interno dell'assemblea diocesana. Ci siamo dati come slogan, come tema, quello che abbiamo veduto e udito, quello che incontriamo, quello che vediamo, noi lo annunciamo a voi. L'invito proprio insieme proprio alla presenza di Sara Melchiori, direttore dell'ufficio stampa diocesano, di imparare a ascoltare le esperienze che viviamo, imparare anche a riflettere sulle esperienze che viviamo, imparare a raccontarle, a narrarle. L'obiettivo è proprio in quest'anno della fede imparare a condividere tutto quello che viviamo. Spesso come operatori Caritas viviamo tanti incontri, tante esperienze, ma facciamo fatica o perché non abbiamo tempo, perché non ci sentiamo all'altezza, ma facciamo fatica a condividere, a narrare. Quindi l'invito è proprio di ritrovarci e insieme confrontarci su questo tema. Raccontare che non vuol dire fare un esercizio di orgoglio per dire che bravi che siamo, ma per testimoniare quello che si incontra e si vede, no? Difatti l'obiettivo non è dire quanto bravi siamo, perché non è questo che ci interessa. L'obiettivo è però di imparare insieme a fermarci, a riflettere sulle esperienze che si vivono, imparare anche a metterle per iscritto, proprio per riflettere, per condividere, per pregare e per condividere proprio per condividere le povertà, le fragilità, anche le nostre inadeguatezze, anche le nostre insufficienze. Ma credo che sia proprio necessario l'esperienza della condivisione proprio per diventare consapevoli di quello che si vive. È un po' stato l'esperienza che hanno vissuto anche gli evangelisti, che si sono fermati e hanno raccolto tutto il materiale di queste prime comunità cristiane e hanno messo per iscritto. Credo che anche l'esercizio di fermarsi e di mettere per iscritto diventa un esercizio proprio di consapevolezza di quello che si vive. Gli operatori della Caritas, poi quelli che lavorano nelle parrocchie, nei vicariati, poi sono a contatto con la realtà e spesso sono a contatto con storie che invece sui giornali o nella cronaca ordinaria non vediamo. Sì, difatti questo corrisponde molto anche alla mission di Caritas, di imparare a condividere, a raccontare e a comunicare le povertà anche alla propria comunità, proprio per rendere partecipi. Spesso anche molti cristiani delle nostre parrocchie non conoscono, per cui l'obiettivo è proprio aiutare tanti nostri cristiani a conoscere storie reali, concrete, presenti nel proprio territorio di povertà, ma anche di tante risorse e energie che ci sono e che sono da sviluppare. Un cenno che non abbiamo fatto nelle precedenti occasioni alla struttura: la Diocesi di Padova è molto grande, avete una struttura vicariale, parrocchiale, c'è diversità fra zona e zona. Sì, in questo abbiamo proprio, su indicazione della nostra diocesi, abbiamo fatto la scelta di lavorare molto all'interno del coordinamento vicariale, cioè tutte le Caritas. L'invito è che si ritrovino all'interno di un coordinamento vicariale Caritas, con la presenza di due coordinatori laici, con la presenza di un presbitero che fa da animatore, assistente spirituale, in modo che imparino a lavorare insieme, per cui una comunicazione orizzontale tra le Caritas delle varie parrocchie di un vicariato, ma anche così noi come diocesi riusciamo a intercettare e a collegarci proprio con il vicariato. Perché allora così riusciamo a creare anche una comunicazione orizzontale tra diocesi e vicariati. La nostra diocesi attualmente ha 39 vicariati, per cui riuscire ad accompagnare 39 esperienze vicariali è già un bel impegno. È impegnativo anche per, se non altro anche per le distanze, ma poi c'è la tecnologia che adesso aiuta, insomma, rispetto a un po' di tempo fa, no? Sì, e difatti su questo noi intanto spingiamo anche i nostri operatori Caritas a dotarsi dei minimi strumenti tecnologici, in particolare l'email, proprio perché diventa poi essenziale per alcune comunicazioni. E adesso passiamo ad altri due appuntamenti. Prossimo tuo, rubrica in collaborazione con la Caritas. Un appuntamento, il primo, ci porta domenica 28 nelle zone terremotate, un progetto che io avevo già citato in una precedente puntata che riguarda una scuola, perché poi i finanziamenti arrivano, c'è stata anche tanta generosità, ma poi bisogna anche incanalarli bene in progetti concreti. Qui c'è una scuola per l'infanzia, giusto? Sì, come su indicazione di Caritas Nazionale sono stati creati dei gemellaggi tra le parrocchie colpite dal terremoto e la nostra delegazione del Nord-Est, di cui fa parte Caritas Padova. E sono stati condivisi i fondi di della nostra delegazione Caritas Nord-Est, e un primo progetto che siamo riusciti a finanziare è proprio la scuola per l'infanzia Caduti per la Patria, che sarà inaugurata proprio domenica 28 ottobre. Per cui i bambini potranno tornare in classe proprio presso la parrocchia San Felice sul Panaro. Quindi credo che questa sia anche un'ottima testimonianza di come i fondi raccolti poi concretamente trovano proprio forma e diventano un aiuto concreto. Per cui colgo l'occasione proprio anche per ringraziare proprio tutti i nostri, la generosità delle parrocchie, di tanti cristiani che si fidano della Caritas e continuano a esprimere la propria generosità, che diventa piccoli segni di vicinanza alle popolazioni colpite dal terremoto. Da questo terremoto e poi da altri eventi, insomma, pensiamo al Padovano, all'alluvione di 2 anni fa, viceversa c'è stata una ricezione invece di contributi. Un cenno, ma poi ci torneremo anche in altre puntate, proprio per quello che dicevi, la gente si fida di Caritas perché sa che i soldi vanno lì. Un esempio concreto: una persona arriva al proprio operatore parrocchiale, consegna una quota di denaro al parroco, all'ufficio, poi che procedura segue questo denaro? Allora, bisogna importante che uno dica sempre per quale obiettivo, per quale progetto, cioè dica sempre la causale, perché se è per una Caritas parrocchiale poi viene utilizzato all'interno localmente, se invece è per proprio l'intenzione per la Caritas diocesana, viene destinato all'interno di un progetto, uno dei progetti di Caritas diocesana. Per cui l'importante è sempre specificare e motivare per quale progetto. Se è un'offerta generica, Caritas diocesana lo utilizza sempre per il centro di ascolto diocesano, dove noi intercettiamo ogni giorno tante persone che vengono a chiedere un contributo e un aiuto, soprattutto per tante il pagamento necessità. Di necessità concrete. E di questo, del centro di ascolto, parleremo magari in una prossima occasione. Dunque, domenica 28, inaugurazione di questa scuola San Felice sul Panaro. Una proposta invece per i giovani, che riguarda l'associazione Libera. Sì, c'è stata all'interno della nostra diocesi, ci siamo collegati insieme con Caritas, Pastorale Sociale del Lavoro, l'associazione Libera e Pastorale Giovanile, proprio per mantenere vivo il tema della legalità, in particolare pensando ai giovani. E allora, come prima iniziativa, ci siamo dati proprio un appuntamento, che sarà domenica 28 ottobre in patronato a Limena dalle 18:30 in poi, dove l'invito è rivolto a tutti quei giovani che hanno vissuto un'esperienza, un campo scuola con l'associazione Libera. In questi anni tante nostre comunità parrocchiali, gruppi giovani, hanno vissuto questa straordinaria esperienza di contatto con realtà, con cooperative che lavorano presso i territori confiscati alla mafia. L'obiettivo è di ritrovarci insieme, condividere un po' l'esperienza vissuta, ma poi alla sera l'obiettivo è anche di rilanciare, attraverso la presenza di Davide Patti, che è un membro della Segreteria Nazionale di Libera, rilanciare il tema della legalità, in modo che l'esperienza del campo scuola poi diventi uno stimolo, ma poi per essere collegati, essere vicini, essere attenti e vivere il tema e sentire il tema della legalità anche qui da noi, perché percepiamo che bisogna anche tenere viva e monitorare costantemente e tenere viva una mentalità, una cultura di legalità anche da noi, nel nostro territorio, non pensando solo ai territori lontani. Eh certo, abbiamo scoperto anche dalla cronaca che la mafia è presente anche qui. Allora, domenica 28, patronato di Limena alle 18.30. La puntata la potete riascoltare dal podcast del sito bluradioveneto.it con la Caritas di Padova. Ci sentiamo fra 3 settimane e invece la rubrica torna fra 7 giorni. Grazie Don Luca, buona giornata. Grazie. Avete ascoltato? Prossimo tuo, rubrica in collaborazione con la Caritas.